Andrea e Adele, 2013, e siamo di nuovo qui, più incazzati che mai. E sapete perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente. All'istituzione non gli importa di noi, e noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani, tant'è che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo, e qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo: fare in culo lo Stato italiano. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? È già live? Da mo'. Ah, sì, bene. Siamo in, online, siamo, no, siamo live from casa Russia. Tua. Sì. Sì. No, spiega cos'era la canzone, che è nuova, è un pezzo. Sì, l'ultima hit di Andrea Anselvini e Adele, non mi ricordo. Muscaro, credo. Muscaro, sì. A fare in culo lo Stato italiano. Una hit del momento, almeno adesso l'abbiamo scoperta, quindi ve la cuccate come sigla. 80.000 visite. Sì, infatti abbiamo voluto approfittare un po' del loro pubblico. Comunque, d'ora in poi cercheremo di proporvi, insomma, tutto il meglio del panorama musicale italiano indipendente. Quindi. Beh, diciamo, Albi, bello figo. Me li anticipi, vabbè. No, vabbè, solo per dire, sappiate. Sì. Canazzo. Faremo conoscere, insomma, talenti che la dittatura delle etichette discografiche non vuole farvi conoscere. Esatto. Va bene. La puntata degli awards. Puntata proprio di sì, un sacco di premi, proprio di I nostri e gli altrui. Però quelli, insomma, ce li teniamo per dopo, così state lì e dite, oh. Ah no, aspetta, ma c'è scritto a che punto lo dicono, schippo avanti, vabbè. Sì, in effetti, purtroppo un mestiere senza sorprese. Vabbè, e invece sorprese ce ne saranno, tipo? Tipo? Non le sai. Infatti, e poi che l'anticipo, eppure se le sapo. Infatti. Ma facciamo subito una precisazione. Ieri era il compleanno di Abbado. No, però era un altro anniversario. No, ieri è 20 gennaio. David Lynch. Ci ascolta in differita. Sì, anche di Fellini David Lynch. E poi sì, è morto Claudio Abbado, grandissimo direttore d'orchestra italiano, da poco anche senatore a vita, 81 anni. Vabbè. Sì, infatti la Lega si è lamentata che non è andato a votare. Adesso che è morto. No, ma questi senatori che non si presentano mai. Fannullone. Sì. Ah no, quello è un altro. È loro. Da quando li hanno messi nel film di Virzì si sono montati la testa. Dai. No, come era? Signora, dai. Mamma, ma sei in ritardo, Cioè, non era il leghista. Non era il leghista, era il figlio. Sì, magari era leghista, però. Il tono era da leghista, per cui. Io là, dov'è il tapulone qui? Io c'ho degli amici del coro degli alpini e ula! No, quella è un'altra cosa. Vabbè, c'hai una news, mi sa. Sì. Dilla. Sì, ho delle news. Vabbè, no, una è proprio una roba... è un annuncio che ho scoperto anch'io oggi. Credo sia una notizia di oggi. Robocop. Per chi come me segue la serie TV Sherlock, su Sherlock Holmes, ambientata ai giorni d'oggi... Ai giorni d'oggi, ma che dici? Ai giorni nostri con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, pare che appunto finita la terza stagione, adesso si parla seriamente di un film, e dico, ma perché? Il telefilm è già un film, sono puntate da 85 minuti, è già uscito un film, anzi due, che erano con un altro tono, va bene, però due bruttini di Guy Ritchie, voi fate pure il film, ma continuate a fare i telefilm. Comunque, vabbè, l'ha annunciato Steven Moffat, che è uno degli elementi dietro la serie, pare che la stiano considerando, e vabbè. E finito, vai. Ah, era tutto qui, ma fai schifo. Sì. E l'altra è, vabbè, la posso già dire, sì. L'ha annunciato che verrà diretto un film su La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, che è basato su questo volume, credo, comunque fumetto di Zero Calcare, lo dirigerà Valerio Mastandrea. Nostro idolo, e non so se ha già diretto. Non mi pare. comunque di solito attore, ripetiamolo, Mastandrea, non Mastr Andrea, sì, è stato un colpo. Gira un sacco di disinformazioni. Comunque, poi magari ne riparliamo perché ci hanno chiesto. Vabbè, no, liquidiamola qui, non mi ricordo chi dei due, mi pare Marco Migro, D, ci chiedeva cosa ne pensiamo. E beh, non ho letto neanche l'opera in questione, quindi non lo so, spero sia una commedia che non fa schifo, tanto per cambiare. Io ogni tanto lo leggo, Zero Calcare, sì, l'opera non l'ho letta, però ogni tanto sbircio, simpatico, vedremo cosa ne può venire fuori. Si presta forse di più a un corto, però boh, chissà. Poi se Mastandrea è la prima regia, Mastandrea, ma in che film ce ne eravamo accorti? Non lo so. Sì, era rimasto su schermo e mi ha detto, oh, guarda, hanno sbagliato. Cosa abbiamo visto al cinema con lui? Ma forse non era neanche al cinema. Sì, boh. Boh, non mi ricordo. Vabbè, vado storia con le mie. Storia vissuta, vai, sì. Allora, due velocissime. Per i fan di Star Wars è stato consegnato il copione alla Lucas... cos'è? Lucas Arts? Lucas Studios? Non so, si chiama ancora così, ma lui non c'entra niente, comunque sì. No, però Lucas Arts ha potere decisionale finale, quindi Lawrence Kasdan e J.J. Abrams gli hanno consegnato... E adesso vedremo cosa ne dice. A proposito, finirà, sì, lo gireranno e uscirà nel 2015, non manca neanche tanto. Invece, doveva uscire nel 2015, ma è stato ritardato di ben 6 mesi con la scusa, diamo a Snyder il tempo di fare un lavoro migliore. vabbè. Batman vs Superman, che uscirà quindi nel 2016 a maggio. E continuano le voci insistenti che Phoenix, Joaquin Phoenix, il tuo eroe, sarà Lex Luthor. No, no. Eh sì. Volevo giocarmi il no per il no finto per il ritardo e il no sincero per Phoenix. Quindi è un no per tutte e due. Madonna santa. Ma non è che è stato ritardato, è che è proprio un film ritardato. Sì. Comunque è buono, non capisco. Perché, vabbè, lui fa quello che gli pare, io lo amo lo stesso. No, magari poi non dice... doveva farlo, oddio, non mi ricordo chi, c'era già un attore, si diceva, vabbè. Spacey, ancora? No, per favore, anche lui appunto ha fatto quella roba lì, per cui un po' si sono svenduti tutti, e prima o poi ci finisce in mezzo al mondo dei fumetti, ma perché? Perché ne sono? Beh, Jennifer Garner e Ben Affleck hanno commentato la tuta di Batman, perché avevano... Sì, quello l'ho letto, sì, che lei aveva messo forse su Twitter, l'ho vista, chi se ne frega, stronza! No, però hanno detto anche Kevin Smith, amicone, ha detto, ma una roba totalmente nuova, pazzesco, altro che latex e robe nere, questo spacca, vedremo. Cioè, chi detto, se ne frega. Inspiegabilmente c'era Joaquin Phoenix. Sì. Invece ultima notizia, un po' più lunga, la Paramount è il primo studio di quelli grossi a dire addio alla pellicola. Cos'è, questo weekend esce The Wolf of Wall Street, no? Sì, beh, ormai metà settimana. Sì, anche se tutti l'hanno già visto, ma fa niente. Ecco, chi andrà a vederlo al cinema vedrà un film su copia digitale, è il primo film appunto della storia della Paramount ad avere solo... la copia digitale, non c'è più la pellicola. Una decisione che hanno preso a fine anno, l'ultimissima, vi chiederete, qual è l'ultima cosa che hanno fatto in pellicola, cioè pellicola e digitale, Anchorman 2, quindi passerà alla storia con questa cosa. Una decisione che hanno preso sia perché solo l'8% dei cinema americani ormai proietta, è capace di proiettare la pellicola a 35 mm, e in più... perché una copia in digitale, se la vuoi comprare da proiettare nel tuo cinema, ti costa $100, la pellicola $2000. Fanno questo per venire incontro agli spettatori, ma quando? E soprattutto perché per abbassare i prezzi del 3D, anche questo fa ridere come cosa. Ma abbassarli per loro o per gli spettatori? Per gli spettatori, ma non si è ben capito, io spero che... Scenderà a 9,50. Sì, vabbè. Infatti. Poi in America è forse sui $15, nelle grandi città, un 3D, quindi un prezzo pazzesco. Quindi non si faranno più, almeno non più film grandi, importanti, economicamente in pellicola, pensero. Ecco, subito ti smentisco perché alcuni dicono, Gorcacchio... Per esempio Christopher Nolan, lui ha già detto che Interstellar uscirà in pellicola, però sì, ormai. Vabbè, ma ha già iniziato forse a girarlo così, per cui. Sì, ma forse ha proprio detto che anche in futuro lui continuerà. Comunque. Ma dove glielo mettono poi? Perché lui non solo gira in pellicola, ma gira in IMAX, per cui. Ma che ne so? Madonna. Vabbè. Comunque oh, è un segno dei tempi. Una grande casa ha fatto una decisione piuttosto importante. Quelle piccole ormai girano solo in digitale. E ormai la pellicola ha vita brevissima. Tempo 2 anni e. Sarà un lusso che pochi autori si prenderanno. Beh, meglio così, perché ancora adesso, insomma, c'è chi non la sa usare bene. Quindi sì. Magari si faranno solo quei film come... lo tiro sempre in mezzo, ma è inevitabile. The Master, girato non solo in pellicola, ma quella particolare pellicola che non può proiettare nessuno. Cioè, quanto è bello, anche solo questo, fare un film così e limitare la distribuzione in quel modo è fantastico. Quindi saranno una rarità, magari... Chissà, prende valore un po'. Sì, ormai. Artisticamente, più o meno. Visto che tutti hanno già visto Wolf of Wall Street, ci sarà la differenza tra il digitale del cinema e il digitale a casa? Sì, dai. Sì. Tra l'altro poi Scorsese era uno di quelli che avevano una posizione un po' più interessante sul digitale. Di solito sono quelli che dicono, ah no, per carità di Dio. E quelli che invece dicono, no, il digitale è il futuro. A proposito di Lucas, che ne ha parlato molto prima di tutti gli altri. E quel documentario Side by Side, metà era in un'intervista proprio a Scorsese che diceva bisogna prenderne atto e era lì più che altro era sul girare in digitale, però insomma era uno di quelli che si erano messi l'anima in pace, un certo tipo di cinema ormai si fa così, ma insomma anche vabbè, noi non siamo dei retrogradi, dei reazionari. Attenzione però, a proposito di retrogradi, Paramount ha comunque detto che, visto che in America Latina e nei mercati lì vicini il cinema col digitale ancora non ci sono, per loro ci sarà ancora la copia in pellicola. Quindi, anche lì. Ma noi siamo il terzo mondo. Quindi. Infatti. Quindi chiedo più che altro che effetti avrà sulla pirateria, per esempio. Credo che aiuterà molto. Appunto, perché adesso bisogna aspettare che circoli una copia DVD o quello che è. Oppure la cam schifosissima. O la copia di Ellen. Sì. Ecco, adesso si potrà fare sempre come con la copia di Ellen degli Oscar. Cioè, chiunque ha accesso prima è un po' furbetto, un po' coraggioso. Insomma, copia, diffonde, chissà. Però avranno pensato anche a questo. Figurati se ci perdono qualche... No, chissà se ridurranno i tempi di uscita dell'home video. Ma che... Lo fecero con, vabbè, con le cassette ai tempi, la ma mossa non è più, per... Non è più un fatto di lavoro, di tempi di lavoro, è una legge, cioè per dare spazio alle copie di un certo tipo, al noleggio, quindi non so, però magari tra l'uscita vera e propria e la release in Blu-ray potrebbero accorciarli, sì. Sarebbe una specie di, insomma, una corsa ai ripari. Piuttosto che fartelo scaricare, guarda, domani ti esce il Blu-ray, magari ci pensi e ti fai a comprare la copia. Se no, vabbè, vedremo. Comunque ormai già molti film, ti ricordi, vabbè che da noi è arrivato tardi, Prometheus, però è uscito al cinema ed era già praticamente uscito in Blu-ray. Sì, vabbè, all'estero. Purtroppo noi siamo terzo mondo anche lì. Ma vuol dire che le copie ci sono già, basta aggiungere la traccia audio, cioè credo sia solo... un interesse, però una volta che è uscito il film un mese dopo non è più in sala neanche quello che ci rimane per tanto, come che ne so, quello di Zalone. No, quello sì, purtroppo quello è rimasto anche più di un mese probabilmente, sì. Però ecco, cioè un mese, due, puoi riversarlo. Sai quante volte mi rode aspettare, anche perché meno poi devi aspettare, prima cale il prezzo. Vabbè. Speriamo. Posta del cuore adesso. Sì, dai, così ci muoviamo. Che vai! Siamo fermi. Allora, sì, sono due domande molto simili, quindi una la facciamo una volta sola. Giorgio M ci chiede, in questi giorni, ma la domanda è un po' più vecchia, però comunque è ancora fresca la notizia. Si parlava di quello che aveva scritto Frusciante sulla sua bacheca di Facebook riguardo a quei critici che in teoria farebbero male al cinema perché parlano bene del film dei Vanzina e poi magari parlano malissimo di La Grande Bellezza. e lui dice giustamente, il riferimento era chiaramente ad Alò, a Francesco Alò, che dice probabilmente lo seguiamo, sì lo seguiamo, e quindi ci chiede cosa ne pensiamo, immagino comunque dell'opinione di Frusciante e della situazione, e boh, mi sembra un'esagerazione, fanno male al cinema, la critica non fa male al cinema, può fargli bene, altrimenti è ininfluente, male lo fanno i produttori e gli spettatori che danno spazio a questo tipo di cinema. Io l'ultimo dei Vanzina non l'ho visto e mi rifiuto di vederlo, quindi boh, parlando di Alò, sì, lo seguiamo, ci piace, non credo sia un critico influente, soprattutto non credo sia influente a tal punto da fare male al cinema, anche perché poi è uno che più che critica fa recensione, un opinionista più che una critica vera e propria, perché la critica, se vogliamo fare i precisi, è quella che fa un'analisi un po' più trasversale dell'opera. Lui è uno che è appassionato e lo fa vedere, cosa che molti critici e recensori non fanno, si diverte con certi film e lo dice chiaramente. Io mi diverto ad ascoltarlo, ma diciamo che no, un 90% no, però 60-70% delle volte sono anche molto in disaccordo con lui, anche perché non fa recensioni appunto critiche, fa un'analisi sua, un'analisi molto entusiasta a prescindere, quindi insomma fatico a considerarla come critica che può addirittura influenzare le sorti del cinema, cioè chi se ne frega, ecco, per farla breve. Sì, più che loro, che appunto non sono critici, sono opinionisti e sono gente che su YouTube dice quello che pensa, e come noi, e qui lo facciamo col podcast, fanno molto più male i produttori, come hai detto. Medusa ha pompato quel filmetto della grande bellezza fino alla nausea, e ancora adesso nei telegiornali si parla, vabbè, ancora adesso ovviamente, visto che siamo in periodo di premi, però Medusa, che guarda caso è posseduta dallo stesso che ha Tre Reti, fa parlare solo di quel film. Cioè, cosa stavo dicendo? Mi sono perso perché stavo leggendo un'altra cosa. Medusa. Fanno male i produttori e non i critici, non gli opinionisti. Esatto, perché diciamoci anche la verità. Chi cazzo li ascolta? Loro due, vabbè, Frusciante sì, ha un bel pubblico, Alò molto meno, ma soprattutto chi legge la critica? La critica non la legge nessuno. Quella vera poi in Italia quasi non c'è più, per appunto. Cui. Vabbè, comunque sui giornali, i critici storici ancora qualcuno c'è, ma non gliene frega niente a nessuno. Ma poi chi va a vedere i Vanzina legge la critica? Va a leggere le recensioni? Uno su mille? Ma infatti... ma appunto perché vedono 10.000 volte il trailer e dicono vabbè, andiamoci, tanto per è vero che la critica non può far che bene al cinema, però a volte fa anche male. Ti ricordi quel ragazzo che sembra Beavis di Beavis and Butthead, che ha un blog che si chiama Cannibali qualcosa, no? Senza dire il nome. Ti ricordi quando massacrò i bambini di Cold Rock? Sì, eravamo i bambini di Cold Rock. Sì, il titolo italiano, sì. Ok. E ti ricordi i commenti sotto? Ah, ok, grazie, non lo vado a vedere. Quello è sbagliatissimo, ma non è colpa sua, non è colpa dell'opinionista, non è colpa della critica. Appunto. Cioè, è colpa di gente che non ragiona con la propria testa. E ancora di più, a proposito di questo, proprio Frusciante, che, ripeto, non è colpa sua, ma ci sono 20.000 persone al giorno che gli scrivono: cosa ne pensi di Kitano? Cosa ne pensi di Alexander Payne? Cosa ne pensi di questo e di quello? Cazzo, ma fatevi una vostra opinione. O comunque, Kitano è riconosciuto da tutti come un grande regista contemporaneo. Guardati quello che vuoi. Guardateli tutti. Cazzo, ne ha fatti 10, non è che ne ha fatti 50 come Woody Allen. Guardali tutti e boom. È un fastidio che devono chiedere sempre tutto. E poi se appunto Frusciante dice Kitano è una merda, cos'è, non lo guardi? Kitano, importantissimo per il cinema di oggi. Bah, vabbè. Sì, infatti, non... come al solito è colpa della gente. Ma certo, purtroppo. In tutte le occasioni. Io non ho mai chiesto a nessuno, anche nei forum, che c'è il classico topic, cosa mi consigliate, non sono mai andato a chiedere quale film mi consigliate di tal regista, eccetera. Quindi sarò io diverso, però cavolo, fa niente, ne becco uno brutto di quel tal regista, fa niente, ne vedrò un altro. Ma prima ne vedo tre e poi... Vabbè. Ma poi uno cerca se la costruisce l'opinione anche così, insomma, non è che io sapevo già quali film vedere, ho letto delle cose, mi faccio una ricerca su Google o mi compro un giornale e lo cerco, non è che nasciamo con una competenza o con un elenco di film già in mente, non dico che non bisogna avere incertezze, però non ci vuole molto, se uno ha la passione e l'interesse vero, fa il minimo sforzo di scrivere due parole su una tastiera, non a uno che deve rispondere in uno spazio limitato. Cosa ti può dire poi su no, certi argomenti? Non... E quindi sì, ricollegandoci a quel discorso, sì, andate a sentire quelli come Alò, come Frusciante, perché se non altro è un modo diverso di parlare di cinema, e magari anche un modo per avvicinarsi, perché se vai a sentire il cinematografo, sicuramente la voglia ti passa, a meno che non sei già inserito. Invece con Frusciante, che è più che altro simpatico, ti avvicini, il film lo guardi in un modo un po' diverso, anche Alò, che secondo me spesso straparla, però hai un modo di vedere il film un po' più sentito almeno, no? Che stia anche parlando bene di un film di Vanzina. Poi tu devi essere cosciente di quello che senti e dire ok, sta parlando bene di un film di Vanzina, ma mi pongo qualche domanda. Insomma, poi vabbè, la grande bellezza, ho evitato l'argomento, evitiamolo ancora. Basta, non ne parliamo proprio più. Sì. Per chiudere su Alò, quello che mi piace di lui è che sì, mette molta passione e alla fine sembra che gli piaccia tutto, però quando deve parlare male di una cosa ne parla male, quando ne parla bene di una cosa ne parla bene, che sia i Vanzina, che hanno sempre fatto merda, ma oh, magari ne hanno fatto uno bello, non è vero, però lo fa, e se deve parlare male del più grande regista al momento lo fa. Quello è il bello, non parte con pregiudizi, mentre molti invece ce ne hanno e ce ne hanno pesantissimi. Quindi lode a Alò per questo. Sì. E altro? L'altro era Marco D che ci chiedeva la stessa cosa, quindi lo ripetiamo e andiamo sulle altre. La prima domanda è se stiamo vedendo True Detective sulla HBO, una serie con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. No, non lo sto vedendo. No, ma in America è già un boom. Beh sì, poi McConaughey ormai pompa, Woody Harrelson è bravissimo anche lui, direi che è già un buon pretesto per vederla, in effetti l'ho ignorata, ma perché sto vedendo altro, quindi, insomma rimandiamo a quando magari avremo visto qualcosa. Sì. L'altra domanda era cosa ne pensiamo del film di Zero Calcare, abbiamo già risposto, l'altra era su Frusciante, quindi... Finite? Niente. Sì, sono tutte qua. Ah no, aspetta, ce n'era un'altra che era a margine. Considerazioni sul fatto che molti soldi si spostano dai film alle serie TV, quindi di conseguenza anche attori, registi, produzioni, e poi chiede, non pensate che la serialità impedisca il raggiungimento di vette alte quanto quelle raggiunte nel cinema? No, non vedo il perché, c'è anche cinema che è uscito a episodi prima che nascessero le serie HBO, non credo, no, è semplicemente un modo di narrare diverso, se ci si mette dietro uno sceneggiatore di talento, un regista di talento e grandi attori, il risultato non ecco, cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, non credo, e lo stanno dimostrando molte serie, il punto è, non esistono magari quelle serie d'autore, cioè quelle un po' più sperimentali. Oddio, magari sto dicendo una fesseria, non seguendo bene il mondo dei telefilm, però quello che manca ai telefilm, ecco, è l'autore che va un pochino meno in tendenza, ecco, non c'è il... c'è sempre la patina di genere, cioè c'è sempre la commedia, il dramma e l'horror adesso, che stranamente sta avendo successo, però non c'è mai... comunque c'è poco che va fuori dai canoni, però qualcosa c'è. Quindi no, non vedo perché debba impedire di raggiungere certe vette, che forse abbiamo il pregiudizio che il prodotto televisivo sia il male. Insomma, come al solito dipende da chi c'è dietro. Ancora non ci si mettono dei registi con le palle, non credo lo faranno mai. Per cui sì, forse non raggiungeremo mai certe vette, però per quanto riguarda altri tipi di cinema, di narrazioni, non c'è nulla da rimproverare alla TV, specie alle serie HBO a proposito. Io sono sempre stato negativo contro le serie TV, come sapete bene, ma non per la qualità, sì, anche per quello, perché quelle che guardo, magari consigliatissime, poi dico, che è? Per esempio The Americans, addirittura l'AFI, l'American Film Institute, ne ha fatto un tweet in cui ne parlava come una delle 10 migliori serie dell'anno. Non è uscito niente, allora, non capisco. Madonna, sì, non ho proprio capito l'entusiasmo in generale intorno a quella serie. Infatti, piace molto, a me sembra piattissima, come lo era anche The Bridge, che comunque ne hanno parlato meno. Vabbè, però non è un discorso di qualità, a me non piace la serialità, non la reggo proprio, neanche qua a fare le maratone, me le tengo lì tutte le puntate già fatte, quindi le vedo quante e quando le voglio. Non riesco, poi ho sempre avuto sì, pregiudizi contro la televisione e guardando le serie TV non riesco a farmene piacere una, quindi continuo ad averlo. Però ecco, non può far altro che bene, ripeto questa frase, perché guarda caso, ieri leggevo una recensione di Marco Giusti su The Wolf of Wall Street e parlava di Scorsese che ha fatto un film molto estremo che fa vedere quello che ultimamente solo le serie TV HBO riuscivano a fare. Quindi il livello che sta raggiungendo le serie TV stanno stimolando il cinema a non perdere il passo, quindi sta aiutando il cinema, il successo delle serie TV. I soldi che vanno destinati alle serie TV, non so, ne hanno tantissimi i soldi, quindi non vedo problemi da questo punto di vista. Sì, appunto, diciamo che paragonandolo al cinema hollywoodiano mainstream, direi che il gap si sta colmando sempre di più. Appunto, troviamo McConaughey e Woody Harrelson in TV, quando una volta erano allo stesso tempo fanno film molto importanti, Scorsese, l'altro Dallas Buyers Club, insomma, la barriera non c'è più, almeno a Hollywood, nel resto del mondo no, forse. Però, sì. Niente, quindi. No, tre domande velocissime da Twitter. Vere. Marv queste erano finte. Marv Cuoghi ci chiede cosa ne pensiamo del prossimo remake di Robocop, fail o incassi? Non lo so. Sinceramente me ne frega poco. La domanda giusta è quella, ci interessa? No, sì. No. Non lo so, lo vedo totalmente fuori da questa epoca, un film di Robocop, cioè andava bene negli anni 90, oggi dipende poi come lo fanno, però non lo so, se è pubblicizzato bene incassi, se no sarà un fail ovvio, ma non dipende forse dalla qualità del film, come al solito. E anche perché non è, che ne so, come Dredd, che era una schifezza, però molto legata alla sua epoca, l'hanno rifatto, io non l'ho ancora potuto vedere. Che praticamente non è uscito, però era un film così, molto cazzaro, è uscito un remake cazzaro, ma dicono, girato bene, con una struttura divertente, ok. Invece Robocop non era solo un film di genere, era una metafora politica, sì, con la patina sempre del cinema di genere, però c'era dietro un signor regista, quindi non era semplicemente il film su un poliziotto robot, quindi la certezza è che molto probabilmente faranno un film d'azione cacciaronissimo e senza nessun sottotesto. Volete un precedente? Ecco, ce l'avevo in mente fino adesso. Quello con Schwarzenegger che andava su Marte, che hanno rifatto adesso. Atto di forza. Ecco, quello è l'esempio. Hanno trasformato un ottimo action, sì, ce n'era comunque poca, e con un'ottima idea in un action di corsa tutto il tempo e non si capisce niente. Altra domanda, Tano da Gavirate ci chiede: non siete sorpresi anche voi che lo spot della Danone con Famelic è stato snobbato sia dagli Oscar che ai Golden Globe? Sì, effettivamente sì. Non so di cosa stiamo parlando. Tano è un nome vero? No. Ho scritto Tano sulla spiaggia. No, sì. Vabbè, prossima. Tony da Napoli ci scrive: può ripetere, sto entrando dentro un tunnel, ma vaffanculo a sta cretina. Così ha scritto, non so. Boh. Possiamo ripetere, sì. Non so cosa, ma sì. 4. Vabbè, sì. Quindi andiamo sui vincitori nominati degli Oscars. Facciamo un discorso. Passiamo prima dai Golden Globe, che sono più vecchi. O... No. Che ne so. Facciamo un discorso in generale. Allora, sì, hanno fatto i nomination. I leoni di questi Oscar sono principalmente tre: American Hustle e Gravity, entrambi con 10 nomination, ed entrambi già visti e già recensiti. Cosa siamo? Più propensi per Gravity? Sì. Io decisamente, American Hustle lo sai, l'ho quasi odiato. Gravity non sono un suo sostenitore accanito, però sì, sono 10 candidature, sono tante. Ma soprattutto Gravity tecnicamente credo che le vinca tutte. Sì, visto che sì, è quello il film, sì. Anche se appunto tecnicamente, però io credo che, visto che siamo sull'argomento, bisognerebbe creare nuove categorie, perché appunto penso, io non sono contro il digitale, la computer grafica così invasiva, non, è un tipo di cinema, come ho già detto l'altra volta, che diciamo sta nascendo ora e ne prendiamo atto e basta. Però ecco, mi chiedo, non dico non premiare la miglior fotografia, perché è un lavoro anche quello, magari altrettanto complicato, non voglio essere frainteso, non dico che non ci sia arte, talento, artigianato dietro un lavoro, un film come Gravity, però mi chiedo, ha senso mettere un film come Gravity nella categoria miglior fotografia in vicino a film che hanno magari un lavoro di fotografia che è più sull'immagine reale, ripresa e registrata, quando Gravity è più che altro lavoro su un'immagine creata artificialmente? Ecco, questo è il mio unico, la unica cosa intelligente che ho da dire su questi Oscar. No, ricorda il passaggio colore bianco e nero, che c'era la miglior fotografia in bianco e nero e quella a colore, insomma, ricorda un po' quello, poi è stata tolta. E vabbè, poi 9 per 12 anni schiavo, per 12 anni schiavo, sì. È un bel titolo più bello. 12 anni schiavo, che da noi esce fra 2 o 1 settimana? 2, credo. Sì. Che ai Globe alla fine non ha vinto nulla, ma ha vinto quello per il miglior film drammatico, perché ricordiamo che c'è un drammatico e commedia, che è una cosa stupida. Però non ti ha dato l'idea di un contentino, perché alla fine l'hanno, ha perso tutte le categorie, anche regia, eccetera, gli attori di colore, perso tutto. Sembrava che, poi non è vero, perché è difficile mettere d'accordo 20.000 giurati, non si può, però sembra quasi che gli abbiamo fatto perdere tutto, diamogli il film dell'anno, perché sennò, cioè il film sul razzismo non gli diamo neanche un premio, noi la Hollywood bianca. Non so, mi ha dato quell'impressione. Poi... Può darsi, però potevano darlo al The Butler, che è stato spinto molto di più, almeno a livello commerciale. E lo so, ma per molti dei critici che poi vanno a decidere per queste cose, mi sembra non sia così, anzi. Non so, è che i Golden Globe sono una bestia strana, appunto tutti dicono, ma come fate a lamentarvi, sono voti decisi dalla critica. Va bene, non vuol dire nulla. Non so, sì, potrebbe essere, perché come dicono molti, cioè al contrario di quello che dicono molti, che cioè i Golden Globe sono poi l'anticamera degli Oscar, non è detto, spesso è così, ma spesso sono appunto dei premi dati a dei film che sicuramente non verranno premiati poi agli Oscar, e allora si dà questo premio così di politico, non so, sì, sembrerebbe, ma i Golden Globe sono, non so, una bestia strana, non riesco a decifrarli. Non che gli Oscar siano più chiari, però. Io ho paura che sto 12 anni schiavo farà la fine del colore viola. 10-12 nomination, non ne vinse neanche uno. E poi giù di polemica, chiaramente. Però, cioè, regia sembra già scontato che Cuaron visserà i Globe. Film, c'è American Hustle, che piace tantissimo ai critici. Attori, gli altri film hanno degli attori che sono già quotatissimi, mentre Age of Four o Lupita Nyong'o sono già sotto. Sceneggiatura, anche lì ci sono dei mostri in confronto, il rischio che finisca a zero è tanto, e ovviamente sono le polemiche, sono già iniziate le polemiche per appunto The Butler, che non è candidato, quindi figuriamoci. Ma no, chissà se c'è qualcosa dietro, qualcosa che ha detto McQueen, che a volte contano anche queste cose. Ma no, ecco, io non volevo fare un discorso di complotto o di razzismo, semplicemente che gli altri sono più forti e non c'è niente da fare. Probabilmente come regia se la gioca e come film se la gioca, però per il resto veramente gli attori e attrici sono tutte migliori degli altri film. Cioè, ah, quelli migliori sono più quotati sicuramente. No, non so, non avendo visto il film devo andare per forza di pensare, perché io parlavo dei quotati. Non saprei proprio ragionare in quest'ottica. Sì, in effetti sembra proprio dal lato appunto americano, dove il film è stato visto, sembra che non ci si creda molto. Sì, diciamo che ci si può aspettare un buco nell'acqua o anche lì un premio così per fargli il favore, ma non sapere neanche dove. Non so se faranno davvero la cosa del film e appunto per non previa... Ah no, Gravity... No, Gravity c'è. Aia, anche Gravity. Non so se la sceneggiatura, ma anche lì ci sono due... Cioè, Scorsese e altri film che potrebbero stare lì. Non saprei. No? Vabbè. Sarà una sorpresa anche quella. A proposito di contentini, The Grandmaster, finito fuori dai film stranieri, gli hanno dato, mi sembra, costumi e scenografia. Fotografia. Ah, fotografia, è vero. Ma sì, strano. Una cazzata, boh. Ma al solito, ma il contentino. E magari lo premiano pure, ma sì, non sì, è sì, facile. Come altra cazzata, secondo molti, anche questo soprattutto non l'abbiamo visto, Code dei Coen escluso dappertutto tranne la fotografia. La fotografia, appunto, sì. Molto bella, quello che si vede dai trailer, però come fai a non mettere almeno una canzone o la colonna sonora? O l'attore, che adesso non mi viene, oggi è una gran giornata per i nomi, che ha vinto, mi sembra, a New York per i premi. Insomma, New York aveva stravinto Inside Llewyn Davis. Cos'è successo? Se ne sono dimenticati completamente tutti del film dei Coen. Crollo totale. Non so, perché poi dai festival in cui è passato, anche europei, sono tutti bellissimo, qualcuno un po' meno entusiasta, ma in generale molto uniformi. Come... Non so, boh. Forse i Coen non piacciono più, non lo so. Pensavo anche quello, uno dei nostri lettori aveva scritto, da quando gli hanno fatto vincere Non è un paese per vecchi, li hanno un po' snobbati. Aspetta, il Grinta l'avevano messo come miglior film, il Grinta non è il meglio dei Coen, di sicuro sarà peggio di questo Llewyn Davis, eppure... Sono gli Scorsese della situazione, li premiano quando non dovrebbero premiarli o comunque li candidano. Non so, sembra che abbiano proprio questa pratica di trattare in un certo modo i grandi registi, quelli veri, non so... Ecco, a proposito di Scorsese, candidato ancora una volta, vabbè, ormai ha vinto, malamente, ma ha vinto, pensa, è il regista vivente, a pari merito con Woody Allen e Spielberg, con più nomination per miglior film, insomma, bel traguardo, cioè tutti i suoi film come numero sono pari agli altri, si è capito? Sì. Sì. E a proposito di questo, appunto, contentino anche a DiCaprio quest'anno? Io la vedo dura, anche quest'anno mi sta che va a casa senza niente. Dipende come reagiscono, gli ha ammenato talmente tanto il pubblico, internet, che boh, potrebbero arrendersi, ma alla fine chi se ne frega, come ho detto altrove, sì, seguo il fenomeno, seguo la cerimonia, ma è del tutto irrilevante per quanto riguarda il cinema, quindi no, DiCaprio, non so, lui probabilmente come attore... Può darsi pure che faccia male, una cosa del genere, è un punto di vista diverso, però boh, le sue soddisfazioni secondo me se le è già prese, insomma, sono ruoli che ricorderemo a prescindere dagli Oscar. Sì, vediamo poi quest'ultima prova, che potrebbe essere poi quella più importante. Ma gli fa fare sempre il pazzo. Sì, ma mi sembra che comunque la sua sfiga è quella di capitare sempre... in anni con troppi rivali forti. Quest'anno c'è McConaughey che molti potrebbero pensare ma quando glielo facciamo vincere a questo? Diamoglielo adesso, DiCaprio ci riproverà. Bruce Dern, che è piaciuto a molti, potrebbe essere il vecchietto che facciamo vincere. Joaquin Phoenix, che secondo me l'anno scorso se ne sono pentiti a non averlo fatto vincere, quindi sono lì un po' col rimorso di darglielo sto premio. E poi vabbè, c'è il Joe Ford, come già detto, però lui lo vedo in ultima posizione. E per me DiCaprio non vince. Però c'è già il Glow. La Phoenix in che categoria è? Non è attore. No, e per cosa poi? Air. Ah, cioè, boh, no, una lista qui e lui non c'era, infatti diciamo... Aspetta, ecco. riguardo attore velocemente. Protagonista, ci sono cinque nomi. Ah, no? Christian Bale. No, non c'è. No, ma neanche quest'anno, guarda che Phoenix è un altro... Forse ha più ragioni di lamentarsi di DiCaprio, visto che a volte neanche lo capitano. Sì, sì. No, vabbè, comunque Bale. Vabbè, stesso discorso no. Però Bale, con quella panza... Sì, sembra un ruolo proprio tira Oscar. Non so, io penso che vada più probabilmente a Bruce Dern, perché appunto devono premiare il moribondo. Io invece, vabbè, a parte tutto, per chiudere almeno dal mio punto di vista, tifo nella categoria attore non protagonista per Barkhad Abdi, sì, di Capitan Phillips. È uno scherzo, per me è bravissimo nel film. E poi, vabbè, in mezzo chi c'è? Jared Leto, che, vabbè, non ho ancora visto, dico, tutti bravissimo, però mi sta un po' qui. Fassbender, mi piace, il film non l'ho visto, ma è già più quotato come attore. Mi piacerebbe, visto che gli Oscar sono poi la cerimonia in cui i premi vanno un po' anche a simpatie più che a talento, a ruoli, mi piacerebbe aver premiato lui, il bruttino magrolino con i dentoni sporgenti, che non è neanche un attore, ma un autista di limousine, sì, tifo spudoratamente per lui. E poi mi è piaciuto, fa un ruolo difficile, non è attore, è molto credibile. No? Vabbè, però diciamo che ha già vinto. Passare in un anno da quello che portava le celebrità al tappeto, sì, rosso a essere lì è già una bella vittoria. Sì, sicuramente. Poi gli Oscar sono capaci di premiare proprio questo, cioè il fatto che il personaggio, però non so, ecco, insomma, c'è una bella concorrenza. Cooper anche. Già. Poi lui nominato e Tom Hanks, no, questo è bello. Sì, appunto, vero, Hanks che diciamo che meritava, anche lui fa una bellissima prova. Bah. Sì, sono delle candidature proprio strane. A parte, mi ha sorpreso, Capitan Phillips tra i migliori film, però in un certo senso tifo per lui, ma mi ha sorpreso vedere anche solo candidato, vabbè, poi magari non è uscito nient'altro, ma The Act of Killing, per cui ovviamente tifo spudoratamente, però è... sarebbe bello vederlo vincere, un film così duro agli Oscar, potrebbero mettere a tacere almeno in parte certe critiche, certi giudizi. Sì, purtroppo non avendo visto gli altri documentari è difficile fare il tifo, però sì, chi se ne frega, che vinca, è troppo bello. Ma difficilmente gli altri saranno a quel livello, poi vabbè, chiaro. Parlo, però è un film talmente oltre certi canoni che si può legittimamente pensare che sia meglio degli altri. Comunque, vedremo. Chiudendo, delusioni, o invece comunque chi ci è rimasto male e chi ha ricevuto più sdegno su internet. Sì, sempre Tom Hanks, che aveva addirittura due film e per entrambi non è riuscito, perché Saving Mr. Banks mi sembra che o è candidato in pochissimo o in nulla. Blue Jasmine non è andato per miglior film, qualcuno si è arrabbiato. Pacific Rim è escluso da tutto, anche per gli effetti speciali, qui la gente ha rumoreggiato parecchio, daglielo almeno per quella la nomination, cioè. E poi cosa? Niente, il resto sì, Cohen già detto. Io faccio il tifo, visto che tu hai il tuo Captain Phillips, per Her. Spero che vinca il più possibile, soprattutto sceneggiatura, e sarebbe bello che Yonze, non so come si dice, lo premiassero lì e poi salisse sul palco anche per ricevere magari il trucco per Jackass, perché ricordiamo che Jackass è arrivato agli Oscar. Meraviglioso. Sì, quello è un altro per cui ti fare. Sì, no, beh, era tra quelli, sì, diciamo che non avendo ancora visto, ripeto, certi film, vabbè, a parte Scorsese che è scontato, direi che Her è quello in cui va il cuore. Bene, passiamo invece ai nostri, a questo punto. Ah, quindi ora proprio non li metti alla fine, va bene. Ma sì, poi passiamo alle recensioni, chiudiamo gli award così. Ecco che mi viene consegnata la busta, in una sola busta pensate tutti i vincitori, vabbè, un bustone. Quindi metto dentro la mano a caso e tiro fuori, vabbè, partiamo dalle categorie meno importanti, tra virgolette. Colonna sonora, Vuoi dire chi ti favi? Non mi ricordo neanche più chi c'era. Benissimo. Vabbè, ne allora... avevo un paio di favoriti, quello di zombie, non mi ricordo chi altro. Breve excursus sull'anno scorso. Vinse l'estate di Kikujiro. Moonrise Kingdom fu l'unico a vincere due premi, perché Anderson vinse come miglior regista. Quest'anno c'è stata una lotta a tre fino alla fine, lotta pazzesca, quindi do il podio con le percentuali. Ah, innanzitutto, avete votato tantissimi quest'anno, quasi il doppio dell'anno scorso, un bel successo, ci rivediamo l'anno prossimo, e tornate a votare. Ciao. Ah no, devo dirli, è vero. Allora, lotta appunto a tre fino alla fine, il vincitore è partito in sordina, alla fine ha superato tutti. Terzo posto, quindi, col 25% dei voti, 1 su 4 per Anna Karenina e Dario Marianelli. L'unico italiano, mi sembra, candidato. Ah no, beh, c'era anche Nina, vabbè, lì erano però autori stranieri. Secondo posto col 26%, quindi un nulla, Stoker, Clint Mansell e Philip Glass, e col 28%, cioè avete capito che non c'è stato niente di distanza dal primo e il terzo, vince a sorpresissima Le streghe di Salem. Avrà votato Ciavoni 20 volte, secondo me. Sì, immagino. Lui stifa spudoratamente per i Velvet Underground. E quindi... Un content. Quella sua stranezza e quelle musiche che ancora fanno venire i brividi alla schiena, vincono e battono grandi compositori, grande musica classica. Il metallaro ha vinto. Sì, pensa a te. Beh, c'è anche Mozart dentro, dai. Sì, un pezzo bellissimo. Vabbè, pezzo nel senso nel film, pezzo è il Requiem. Allora, il premio dei cartoni. L'anno scorso vinse Brave, con una sfida anche lì a tre. Purtroppo La collina dei papaveri perse perché non l'aveva visto quasi nessuno. Però, insomma, arrivò quasi a vincere e perse contro i due colossi Pixar, bruttissimi, ma fa niente, Brave vinse, beh, bruttissimo Brave, Ralph spacca tutto sì. Vabbè, quest'anno, terzo posto, Frozen, 22%, 27% per Wolf Children, che fino alla fine è stato tanto così da vincere, e vince stranamente, perché noi l'abbiamo sempre massacrato, il regista, col 30% dei voti Frankenweenie di Tim Burton. Madonna, stiamo dando a Tim Burton. Perché l'abbiamo candidato? C'era niente di animazione. Ha vinto proprio l'anno, non c'era lo studio Ghibli, quindi eccolo. Bastardo. Vai. Vabbè, l'anno prossimo spero che riusciremo a mettere Miyazaki in qualche modo. E ripeto, mi dispiace che Ernest e Celestine non sia finito. Che è agli Oscar però, no? Esatto, speriamo, però vabbè, anche lì sarà massacrato da tutti, cioè dai rivali. Premio fotografia, il premio Instagram. Non c'è stata gara, ma proprio niente fin dall'inizio. Terzo posto col 17% Spring Breakers di Benoit Deby. Secondo posto The Master, 20%. Di Mihaly Marehe Jr. e stravince con quasi il 50%, solo Dio perdona, Larry Smith. Mamma mia, siete delle merde. Vuoi consolarti? No, beh, ultimo, no, I giorni dell'arcobaleno, ma penultimo post Tenebras Lux. Vabbè. Non capite proprio la fotografia ispanica voi, vabbè. Ventra. Il vincitore l'anno scorso fu Dickens per 007. Abbiamo premiato uno 007, ancora pazzesco, vabbè. Premio sceneggiatura, anche qui lotta a tre. L'anno scorso, se vi ricordate, fu una sfida all'ultimo voto e vinse di un voto solo Killer Joe. Quest'anno non è stato così, anzi sì, ha vinto di un solo voto il vincitore, vabbè. Però ha sempre tenuto un certo distacco dal secondo e il terzo, che però sono sempre stati lì. Terzo, partito fortissimo, poi superato Il passato col 20% dei voti. Secondo, Blue Jasmine col 24% e vince Prisoners col 25%, 1 su 4 ha votato Prisoners di Aaron Wojcicki. Vabbè, che devi fare? ultimo, no, ma i giorni dell'arcobaleno. No, è già, sì. L'ultimo in tutte. Ah, è importante che in classifica. Attrice? O vuoi altro prima? No, no, vai attrice, vai. Attrice. Un po' come l'anno scorso, quello di Cronenberg è stato falsato, ah, sì. Anche questo un po'. Perché alla fine vabbè. Ha vinto di 2 voti, di 1%, però ha vinto. Terzo posto per Emmanuel Seigné, 16%. L'anno scorso vinse Marion Cotillard, ricordiamo. Seconda Kate Blanchett col 37%, e col 38% vince Jessica Chastain alla seconda nomination di fila. Vince. Sono contento lo stesso. Sì, i fan di Jessica Chastain sono troppi. Sì, e come potrebbe essere diversamente? Vabbè. No, c'è stato un recuperone di Kate Blanchett, ma niente da fare. Attore, il masculo, come potrete capire non c'è stata gara, proprio neanche partenza, 60% per Joaquin Phoenix. Maronna. Mostruoso, vabbè, l'avevamo già detto noi in podcast, ma tutti l'avevamo già detto, non c'era gara. Il secondo è Michael Douglas col 12% e il terzo Philip Seymour Hoffman con l'11%. Due dello stesso film, è vero. Stacchi abissali. L'anno scorso vinse Fassbender invece. Primo dei premi importanti, il premio del film più brutto. L'anno scorso fu un plebiscito per Dario Argento, tutto podio tutto italiano, perché i Manetti Bros avevano addirittura 2 film. Già, 2 candidature, che lusso. E purtroppo non vinsero, neanche messi assieme battevano il Dracula di Argento. Quest'anno premio Gabriele Albanesi, sottolineato, Gabriele Albanesi. Innanzitutto La casa alla fine della strada e Smiley, pochissimi voti, quindi sono dei bei film. Non l'ha visti quasi nessuno, purtroppo. Cioè, per fortuna, ecco. Terzo posto, col 18% dei voti, Tulpa. Ah. Peccato, vabbè. 22%, secondo posto per 11 settembre 1683. Primo posto, quindi cos'è? Di sicuro è un movie. Eppure il premio si sposta in America. 37... Aiuto. Non aiuta, tutti e due americani. Infatti, 37%, comic movie, e vai! Ah, sono contento, non l'ho visto e quindi non ho visto il film peggiore, secondo voi, vabbè. Scary Movie pochissimo, è 11%, è finito quarto, ma più vicino al quinto che al terzo. Ma mi sa che anche questo l'hanno visto in pochi, perché mi ricordo quando è uscito non ha avuto per niente il solito rumoreggiare intorno, vabbè. Insomma, io sono contentissimo, Comic Movie, adesso potrò metterlo dappertutto, peggior film dell'anno, secondo voi, anche io, voi. Bye. Adesso premio Blockbuster. Ah già, quello nuovo. Sì, nuovissimo, l'anno scorso appunto non c'era, visto che erano più di 5, più di 6, partiamo dal quinto posto, che comunque è pari merito, quarto e quinto, pari merito, Lo Hobbit, 8% di voti, e L'Evocazione, anch'esso 8%. Terzo, Rush, col 14%, piaciuto molto, Ron Howard. Secondo, era partito fortissimo, sembrava che dovesse vincere, invece poi strasorpassato, Pacific Rim, 25%, e ovviamente vince Gravity col 33%. E vabbè, come gli Oscar. Sì, ultimissimo Captain Phillips, perché molti avevano detto, ma Blockbuster tua sorella. Vabbè, finito lì. No, ma secondo me anche quello, perché non l'hanno potuto vedere in molti, infatti ho letto dopo le commenti, è bello, me lo son perso. Lone Ranger, so che vuoi saperlo, è arrivato penultimo col 4%. Vabbè, qualcuno l'ha votato. Ok, vai. Miglior regista dell'anno. Terzo posto, l'anno scorso vinse Wes Anderson, come già detto. Terzo Harmony Korine col 17%. Primo, lo dico subito così, è sempre un Anderson, Paul Thomas Anderson, 33%. Nicholas Winding Refn col 29%. È stata una lotta fino alla fine, ma Paul Thomas Anderson è sempre stato davanti. Ultimo Pablo Larraín. Siete dei bastardi, vabbè, no, avete fatto vincere The Master. Vi voglio bene. Allora, fin dell'anno invece, anche qui partiamo dal quinto posto. Allora, c'ho proprio le palpitazioni proprio. aspetta, primo, secondo, terzo, quarto, sì, il quinto posto è un mucchio di gente. The Canyons, The Grand Master e Venere in pelliccia tutti al 6%. Quarto posto, anche un po' sorpresa, con l'8% Il Passato. Ultimo, no, Blancanieves, no, anche i nomi dell'Arcobaleno, pari merito. Madonna. Terzo posto, podio, Spring Breakers, che quindi è arrivato sempre terzo in tutte le categorie in cui è stato candidato. Fin dell'anno, secondo voi, e quindi anche fin dell'anno, secondo Finbusters, è Solo Dio Perdona, 25%. The Master arriva secondo col 19%, quindi si dividono i premi principali tra loro due, e tutti e due ne vincono due a testa, e raggiungono Wes Anders e Moonrise Kingdom, che ne aveva 22%. Vabbè, ritira il premio Paul Thomas Anderson, ma si rifiuta di ritirarlo, e quindi lo prendiamo noi. Sì, sono ritirati tutti, quindi dobbiamo ritirarli noi. Il figlio del fratello dell'aiuto regista. Sì. Di. Che bello. Sei contento? Sono contento, sì, anche perché mentre parlavamo mi è arrivato il pacco da Amazon. Bam! Ah, non vale. E va bene, potete votare per il nuovo sondaggio cosa c'è nel mio pacco di Amazon, se lo saprete alla fine della puntata. Ah, va bene. Sì, non è in diretta la puntata, per niente. Infatti, era lì là. Va bene. Intanto sto leggendo un tweet, Barbarella, la serie di Refn, approda ad Amazon. Che cazzo vuol dire? Forse che la... Oh, non lo so. Mi sembra che Amazon voglia cominciare a produrre anche, però non so. È stata opzionata dagli studios, insomma vogliono produrlo. Ah, bene. Pensate, quindi si fa, sembrava ormai una balla colossale, pensate. Ma vabbè, film. Ehi, film. Oh! I film in sala. Vabbè, film, il primo è una parola generosa. Partiamo subito dal peggio o facciamo contrario? Partiamo dal peggio, dai. Va bene. Sì, è un film che è già candidato alla prossima prossimi Film Buster Award come peggior film. Carrie di Kimberly Pierce. Ogni volta dicevo Price, ma è Pierce, è importante. È la regista di Boys Don't Cry, quello in cui Hilary Swank faceva la travestita al contrario. Si conciava da ragazzo perché gli piacevano le femmine. Ecco, pensate, uno che fa un film del genere, nel bene e nel male, non voglio esprimere giudizi, gli affidi un horror, e un horror con un finale come quello del Carrie, sia del film che del romanzo, insomma. E questo già lascia perplessi. Ma già il fatto che si faccia un remake, inevitabilmente, lascia perplessi. Io volevo evitare il solito discorso, l'utilità o no del remake. Ribadisco un concetto chiave, il remake non è un male di per sé, ne abbiamo parlato per Oldboy, è un male quando diventa semplice riproposizione, e secondo me siamo in questo caso, nonostante all'inizio sia stato pubblicizzato come adattamento più fedele al romanzo, nuovo adattamento, un modo di una formula che si usa spesso per dei semplici remake. Nella recensione facevo una premessa molto lunga che non ripeto, dico semplicemente che esistono già, oltre al film di De Palma, altri due film sul personaggio di Carrie. Uno è un sequel del 99, che in realtà poi è a tutti gli effetti un remake perché ripercorre la stessa storia con un personaggio nuovo, e poi c'è un remake vero e proprio nel 2002 per la televisione, un film di 2 ore passa. Come molti poi adattamenti dei romanzi di King per la TV, che erano tutti lunghissimi, tutti molto brutti, questo non l'ho visto. Quindi, insomma, quello della Pierce è a tutti gli effetti il quarto film sullo stesso personaggio. Direte voi, ce n'era bisogno? Non lo so, sta allo sceneggiatore e al regista renderlo, non dico necessario, perché quale film lo è, però aggiornarlo, riproporlo in una veste diversa, contestualizzarlo, perché comunque sono passati 40 anni, ci sta. Ecco, chiudo subito il discorso dicendo che non c'è nessun tipo di aggiornamento, non c'è nessun tipo di novità, è che se ne dica un remake quasi shot by shot, c'è una differenza non sostanziale, comunque c'è un inizio diverso che è semplicemente un pezzo attaccato, che può essere anche una scena... No, è del tutto inutile in realtà, è sangue gratuito, anche perché poi c'è una stupidaggine, perché è un parto e non c'è il cordone ombelicale, vabbè. E poi un finale che è identico, ma c'è una piccola variazione che lo ricollega al romanzo di King, in cui c'era una situazione che non emergeva negli altri film. Tutto qui, quello che sta in mezzo, almeno da alcuni punti di vista, è identico, no? Quando si dice remake shot by shot, cioè inquadratura per inquadratura. Qui sarebbe più giusto dire dialogo per dialogo, perché ad essere identiche sono le battute dei personaggi, proprio identiche, io non l'ho visto in italiano, quindi magari lì c'è qualche novità, però in originale, vi assicuro, sono proprio le battute che all'inizio fanno pensare a delle citazioni, per tenere buoni i fan dell'originale, ma poi sono proprio insistenti, cioè tutte le battute più belle del film originale ci sono, ma anche altre, e dopo un po' non ne potevo più, già questo mi ha irritato a morte. Poi sì, registicamente c'è almeno un tentativo di recuperare quello che aveva fatto De Palma, purtroppo la regia non c'è De Palma, ma c'è una persona che chiaramente non sa quello che fa. Per carità, la prima parte e alcune scene sono dirette con mestiere, ecco, come potrebbe farlo qualsiasi regista con un minimo di talento. Poi però quando c'è da buttare il sangue a secchiate, insomma a muovere un po' la macchina da presa che non si muove, il nulla totale, nel finale che era l'apice di un crescendo di tensioni, di situazioni particolari, qui diventa caciara e basta. Tra l'altro, secondo me è molto indicativa una scena dopo questo ballo famosissimo, in cui Carrie torna a casa dopo quello che succede, vabbè, non so se è uno spoiler, Carrie è un classico, vabbè, non lo dico, comunque Carrie torna a casa dopo che succede quello che succede. Vabbè, si vede nel trailer, dai. Guarda. Sì, infatti, anche volendo, nonostante sia per i nuovi giovani, si vede già tutto. Comunque, Carrie avanza verso la macchina da presa, e poi la macchina da presa si inclina a sinistra, e lei svolta ed entra in casa. E tu dici, ma che cacchio sta succedendo? Davvero sembra una cosa fatta... Sì, è una scena sinistra, sì, davvero, cioè, muovere la macchina da presa perché puoi. Cioè, cosa vuol dire? È una cosa che mi ha fatto cascare le palle, perché poi alla fine di un pessimo film, quindi sei proprio saturo e arriva questa cosa e dici, ma che vuol dire? Davvero, lascia perplessi. Il problema fondamentalmente è appunto, si tratta di un banale, di una banale riproposizione di un film che era importante per diverse ragioni. Una era la regia che viene meno, due era anche la novità che viene di nuovo meno. Qui cosa succede? Oltre a quelle novità di cui parlavo prima, c'è la solita cosa che poi c'è in tutti i film di questo tipo, cioè l'umiliazione che viene ripresa col cellulare, il video viene messo su YouTube e salta fuori al momento giusto. Ecco, questo è il concetto di aggiornamento secondo la Pierce e lo sceneggiatore, non so chi sia, semplicemente mettersi YouTube, secondo loro la novità e la generazione di oggi è che i ragazzi sanno mettere i video su YouTube, che è vero, perché molti adolescenti sanno fare solo questo, però questo non giustifica un'operazione commerciale come questa. E poi l'altro problema è l'attrice. Questa è la prima volta in cui Carrie viene interpretata da una vera adolescente, Chloe Grace Moretz, che all'epoca aveva 15 anni, mentre invece la Spacek e le altre attrici avevano 26-28 anni. Solita cosa di Hollywood, degli adolescenti trentenni. Comunque, fatto sta che erano più appropriati, più adatti quei trentenni, perché la Moretz, uno, c'ha la faccia che fa paura come quella di uno scoiattolo, quindi proprio non funziona. Due, è diretta male e lei, secondo me, recita non al suo meglio, ma comunque male. Questo modo di mostrare i poteri telecinetici, muovendo le mani, facendo le facce, davvero fa le facce, rote agli occhi, le naricione soprattutto, sì, le narici dilatate, c'è una faccia che non ci crede nemmeno lei, cioè è proprio ridicola, in scene che dovrebbero essere tese, grottesche, emozionanti, no, lei non c'entra una mazza. L'inizio poi è emblematico, perché c'è la scena nelle docce, famosissima, che è terrificante nell'originale, perché la Spacek è spaventosa, eh. È un scheletrica quasi, ha un fisico molto asciutto, degli occhi bellissimi, ma lì diventano spaventosi, e fa paura, è terrificante, avanza con queste mani e sembrano, cioè, davvero viene voglia di unirsi al branco, di darle addosso, perché è quell'essere emarginato e spaventoso che un po' scatena le ire degli stronzi. Invece no, la Moretz è lì con le mani insanguinate, a parte la scena un po' più castigata, perché vabbè, l'attrice è minorenne, però è proprio, non ci credi, non funziona, non... Sì, magari l'età è giusta, però non funziona come bruttina o come imbruttita, non fa paura quando deve far paura, e dietro c'è una sceneggiatura che non fa acqua da tutte le parti, scene che sembrano prese da X-Men, perché lei che si allena a sollevare i libri, questa è l'altra fondamentale aggiunta, non lei che fa volteggiare i libri nella sua stanza. Sembra un cinema per deficienti, cioè rifare lo stesso film per una generazione che magari in parte è composta da deficienti, ma che si sta indeficientendo per colpa di questo cinema. Qualcuno giustamente dice, i nuovi giovani penseranno che questo è Carrie. No, quelli un pochino più svegli magari faranno la cosa giusta e andranno a rivedersi l'originale o a leggere il libro. Il resto non conta e fa solo incassi. È davvero un film sbagliato, proprio l'apoteosi del remake inutile. Ed è anche discretamente brutto, perché come ho detto è girato male nei momenti più importanti, quindi lasciate perdere e te cedo la parola. Sì, una piccola news, vi ricordate, la dico adesso che è totalmente fuori contesto, ma fa niente, ieri era il compleanno di Lynch, vi ricordate che sta facendo la stagione numero 3 di Twin Peaks, nessuno, cioè io non ci ho mai creduto, per niente. Ha dato la conferma a lui. No, guardate che non sto facendo nulla, non sto facendo nessuna stagione, non sto facendo nessun progetto. Probabilmente, come avevo pensato fin dall'inizio, è solo una breve cosa che ha fatto che entrerà nel Blu-ray come, ecco, nel box set da 10 DVD della Gold Edition di Twin Peaks in DVD. C'erano delle scene fatte adesso con una cameriera a un bancone che parla con i clienti e poi introduce le scene. Era tutto lì, era un pezzettino per l'edizione. Questa cosa sarà uguale. Vabbè, ci tenevo solo a dirlo, visto che adesso è arrivata la conferma. Tutti quei boccaloni ci avevano creduto. Ok. Carrie. Ecco, parliamo di cose più belle. Totalmente sbagliata l'attrice protagonista, ed è emblematico di come Hollywood fa i remake oggi. Probabilmente non hanno letto il libro, probabilmente non hanno visto neanche l'originale, o se l'hanno visto hanno detto mamma mia che cesso che è, ma è quello il punto, deve essere un cesso, un'emarginata, è una con i capelli zozzi che puzza di mestro. È brutto. Vabbè. Beh, però dopo quella scena almeno per un po', dopo quella scena, almeno per un po', puzzerà, cioè, può darsi. Sì, però avete capito, quella che tutti avete avuto in classe, almeno una volta, noi avevamo la Sacco. vabbè. Sono causa, poi. Alessandra, no. No, però la zitto. Ovviamente che ci ascolta per qualche stranissima ragione. Va bene, A punto... Affila il pugnale per vendicarsi. A punto Sacco di Bogogno, così nessuno sa chi è. Tagliare adesso. Ma va, dai, stavo scherzando. Comunque, ce l'abbiamo avuto tutti una così. Se in classe voi aveste una come la Moretz, ma col cazzo che è emarginata, che tutti ci provano con una così. Non è neanche abbruttita per niente, è quella bella ragazza, purtroppo ancora minorenne, per molti, che è una strappona, insomma. Per di più quando va al ballo, la conciano anche ancora meglio e diventa proprio una strafiga, ma quella non è Carrie, è talmente sbagliato, a parte questione di età che fa niente, insomma se lei sceglievano una quindicenne brutta andava bene, anche se non c'aveva i 27 anni della Space eccetera, ma lei è totalmente sbagliata. E se sbagli il protagonista, hai già sbagliato metà film. E poi per il resto, se ti ricordi, in una vecchia puntata avevo detto l'unico motivo per rifarlo è esagerare nella scena finale, cioè l'apocalisse che lei provoca sia dentro la sala da ballo che fuori, adesso che c'hai tutti quegli effetti speciali devi fare una roba che me la ricordo, devi fare una cosa che il resto del film sarà una merda, ma lì dico azz, bello, ci siete riusciti, avete fatto quello che De Palma purtroppo, poveraccio, non poteva. Invece no, neanche quello. Adesso quello di De Palma non l'ho visto recentemente, però con 2 lire e con gli effetti speciali vecchi di quanto? 30-40 anni? Non ci sono neanche, perché sì, ma quella scena tira su i tubi della gli idranti, che poi succede anche nel nuovo, e basta. Poi il resto era uno split screen, un filtro rosso, cioè davvero l'inventiva senza fare nulla. Sì, volevo dire quello, gli effetti diciamo visivi messi dopo in post produzione, o comunque i trucchetti del mestiere usati durante le riprese, sono meglio di quello che succede qui, o comunque sono sullo stesso livello. La carneficina, quello che succede dentro la sala da ballo, non è niente di che in questo Carry. Doveva essere una cosa estrema, buttare tutti i tuoi soldi in quella scena, niente di che. Quando esce, sì, qualcosa di più c'è, soprattutto mi sembra la scena del benzinaio non c'è nell'originale, no? O c'è? No, nell'originale lei schiva la macchina si capota e come nei Simpson prende fuoco. Ecco, sì. Però anche lì era bellissima perché c'era un ralenti, c'era l'attrice davvero, non c'era la sagoma di cartone, la macchina la schivava all'ultimo, anche lì vedevi la differenza. Ecco, e qui invece c'è questa cosa in più che non è che faccia dire, ah ecco, vabbè dai, no, niente, non è niente di che, anzi è anche abbastanza ridicola, soprattutto quando sfonda il vetro con la gamba. Ma anche prima c'è una stranezza, perché questa macchina è sollevata, no? E la persona dentro la macchina accelera. E certo. Carrie cede la presa e la macchina accelera sospesa in aria, cioè le ruote è come se, almeno così la presenta, poi magari è una deduzione mia, a me sembra che vogliono far vedere che la macchina accelera sospesa in aria e va in avanti, non ha alcun senso, vabbè. Sì, infatti, la trazione ha bisogno di una superficie a cui appoggiarsi, sì. Vabbè, niente. È fisica elementare, vabbè. È una cosa abbastanza semplice, ma niente, se no scusa. Quando prendi un dosso voli, sei sollevato. È propulsione, non è... ok. Ecco, quindi fallisce miseramente sulla protagonista. Non fa l'unica cosa che poteva fare, certo, la cosa che doveva fare era fare un film decente, un minimo diverso, attualizzarlo, e l'unica cosa che lo fa, che fa in questo senso è appunto YouTube, sai che roba, i cellulari. E niente, non fa nessuno non fa questa cosa, rovina quel poco che, perché ecco, all'inizio mi sembra che la cattiveria dei ragazzi sia non so come dire, genuina, insomma, è una buona cattiveria, è tipica di questi giovani di oggi. Non so se sono più cattivi dell'originale, però è una cattiveria che mi è piaciuta. Sia la, adesso non mi ricordo i nomi, la ragazza, insomma, quella che butta il secchio, che il fidanzato, sono dei buoni cattivi. Poi però si perde completamente il film, e a parte quello non è neanche brutto, è semplicemente inutile, perché è una ripetizione, è una copia spudorata, e poi sono tutti gli altri difetti che ho già detto. Inutile, neanche, brutto no, anzi non riesci a dirgli brutto, non riesci a tu ci riesci però non riesco a dire è brutto, è semplicemente inutile, che va oltre il brutto. Sì, non c'è neanche un giudizio. Brutto in alcuni passaggi, cioè, sì, sono cose che non mi piacciono semplicemente. Poi, il problema è che è molto peggio, mentre il film brutto te lo ricordi perché è brutto, questo è girato come fa. Non è che è bene, non c'è un modo di spiegarlo, è girato come si fa a scuola, una cosa che impari a fare meccanicamente. Poi, a mio avviso, è diretto male in certi passaggi, anche perché appunto, è adatto a una persona che non ha dimestichezza con il dinamismo. Vabbè. che devi fare. Sì, un'altra tacca sul fucile, un altro remake che purtroppo ti spinge a dire sempre le stesse cose, perché uno cerca anche di fare un discorso più intelligente, però quando è l'ottantesima volta, magari la ventesima in un anno, che dici di diverso? Cioè, dietro c'è sempre la stessa mentalità e il risultato è sempre lo stesso. E sì, forse perché continuiamo a vederli, quella è la domanda giusta. Sì, no, ma è proprio, ripeto, la protagonista, il modo in cui la scegli, dai già un'impostazione al film. Voglio fare la cosa bella, ma Carrie non ha niente di bello, è un racconto dell'orrore. Ma sbagli già proprio l'impostazione, ma cosa stai facendo? Una volta i film saranno stati più brutti, nel senso qualitativo, ma almeno azzeccavano le cose basilari. La protagonista è un cesso schifata da tutti. Bene, non prendiamo l'attrice del momento, prendiamo questa Sissy Spacek che cazzo è veramente brutta, a qualcuno piacerà, però non è nessuno, cioè, non è quello, non è l'idolo delle teenager, ecco, se no sbagli già quello. E comunque non piace ai fan dell'originale, chiaramente, questo nuovo film non piace ai fan di King e non piace neanche alle nuove generazioni, perché vai a leggerti i commenti, chi dice che fa schifo e chi dice ma questo è un horror. Vabbè, a parte quella è una critica sbagliata, fa niente, però non sta piacendo a nessuno. Questi sono soldi buttati, non quelli che dai alla televisione, questi dei remake. Però mi sa che comunque almeno fuori è incassato, Sì, per la pubblicità, sì. Penso, ma una volta visto tutti lo stanno massacrando. Beh, su IMDb mi sa che ha un 6, però sì, comunque non ha un seguito forte. Anche se mi ricordo sul forum, per esempio, una persona, neanche nomino, aveva detto, oh, bello, bello, non so se poi tirava in mezzo l'originale. Non so, sarebbe interessante sottoporlo a chi un minimo di competenza ce l'abbia, come osservatore critico, ma che non ha visto l'originale. Sì, infatti. Che potesse magari analizzarlo senza quel disgusto inevitabile, ma comunque, vabbè, insomma. Credo che cambierebbe poco, perché è un film piatto, a prescindere da... Cioè, viene meno anche quel sottotesto, quel personaggio che era poi una figura, no, quasi anche lì, cristologica quasi. Carrie funzionava tridimensionalmente nell'originale, qui è proprio la ragazzina degli X-Men, che però a un certo punto si arrabbia. Questo è il massimo della profondità, vabbè, basta, ne abbiamo parlato anche troppo. Anche perché volevamo fare una puntata di 40 minuti e invece ne abbiamo messo 50 solo a introdurre tutto. Vabbè. No, neanche un'ora. Ok, sì. Passiamo al prossimo. Il prossimo è bello, almeno a me è piaciuto. C'era una volta a New York di James Gray, che in originale è The Immigrant, film che è distribuito non malissimo, ma comunque non dappertutto. È un film che si sono un po' dimenticati tutti, perché era a Cannes, mi ricordo, magari male, ma mi ricordo che qualcuno lo dava come possibile vincitore perché a Spielberg pare fosse piaciuto, invece poi non ha vinto, ha vinto Adele, come se vi ricorderete, e da lì in poi è sprofondato nell'oblio, tant'è che in America non è ancora uscito, nonostante sia un film americanissimo, quindi è escluso dagli Oscar a prescindere, perché se non sbaglio esce in aprile, quindi è uscito prima da noi, pensate. Bene, la trama in breve, visto che questo non è un remake, sì, un po' è un remake, però. È la storia di due, cioè, sì, diciamo all'inizio, di due immigrate polacche, Eva e Magda, che arrivano a Ellis Island, come sapete, l'isola su cui si smaltivano, diciamo, gli imbarchi di immigrati. Subito Magda si fa beccare con un colpo di tosse che insospettisce le guardie e quindi viene ricoverata e probabilmente destinata a essere rimpatriata subito. Invece Eva, Marion Cotillard, rimane in fila, ma la rifiutano lo stesso perché considerata una donnaccia per qualcosa che è successo sulla nave, che non ci viene detto. E quindi, in quanto donnaccia, peso per la società e non desiderata. Viene messa in fila per il processo e incontra un bell'uomone moro, che si chiama Bruno Weiss, interpretato da Joaquin Phoenix, che le promette di farla entrare in America, e lo fa. Però si scopre subito che lui è un diciamo magnaccia, anche se lo nasconde bene, che ha una compagnia di attrici, diciamo, di teatro, che all'occorrenza si concedono anche ai clienti. Quindi Eva, una cattolica, naturalmente in quanto polacca, fervente, si ritrova di colpo a dover vendere il proprio corpo, non solo per vivere lei, ma per corrompere le guardie e far insomma, impatriare anche la sorella. Quindi è una storia di immigrati, appunto, dei immigrant, che in parte si rifà all'autobiografia, alla biografia, pardon, del regista, che è nato in America, newyorkese, ma ha origini russe, e pare sia stato influenzato dai racconti dei nonni russi immigrati negli anni 20, tant'è che poi il film è ambientato proprio negli anni 20, ed è un affresco storico non colossale, perché poi la forma è molto chiusa, però è di ampissimo respiro, è una accuratissima ricostruzione storica, soprattutto negli interni, che sono poi i protagonisti del film, perché c'è questa New York di cui non vediamo quasi nulla, a parte lo sfondo, ecco. È una storia, un tipo di cinema classico, forse appunto sarebbe più giusto dire neoclassico, visto che si rifà al cinema classico, ricorda proprio per questo il cinema di Paul Thomas Anderson, l'ultimo in particolare, quello del Petroliere e di The Master. È inevitabile ripensarci, anche perché intanto c'è lo stesso attore, Phoenix, e poi perché si parla degli stessi anni e dell'America con uno sguardo elegantissimo. Quindi cinema neoclassico, molto citazionista, c'è Coppola, c'è Leone, mi viene in mente inevitabilmente perché gli italiani hanno dato questo titolo tradotto nel solito modo, cioè stravolto, che c'era una volta a New York, che credo vorrebbe suggerire un'analogia con c'era una volta in America, e insomma ci sta, perché si racconta quell'America in quel modo, con quel tono della fotografia, con quei personaggi piccoli, miserabili, ma che poi sulla pellicola, sullo schermo diventano enormi. Quindi questo cinema, grande cinema classico, bellissimo, ecco, usa l'estetica classica, quella elegante, quella dell'epica americana, per raccontare una storia che è anti-epica, è appunto una storia di miserabili, di sfortunati, di gente che arriva in questa terra delle opportunità e si scontra con la realtà, con quella che c'è dietro il sogno, e diventa un animale che deve sopravvivere. Quindi diciamo sono tutti dei sopravvissuti, dei personaggi feriti che si rialzano in qualche modo, ma sacrificano qualcosa, tutti, Eva, Bruno, anche Orlando, questo personaggio che esce dopo, che dovrebbe essere più positivo, anche lui nasconde qualcosa. Quindi è proprio un'America amarissima, un affresco amarissimo. Come per Anderson c'è questo sguardo al passato per demolire il sogno americano, come succedeva nei grandi romanzi di Scott Fitzgerald, di Scott Fitzgerald, che è forse il più rappresentativo. E c'è appunto, oltre al grande cinema, c'è anche la grande letteratura, c'è, io ci ho visto Victor Hugo, ci ho visto Dickens, anche gli americani, appunto Fitzgerald, ma anche Hawthorne, che probabilmente tornerà in mente, come diceva Loper, per le analogie con La lettera scarlatta. Io ci ho visto molto Kafka, e magari non è un caso, visto che insomma Gray è un migrante che arriva da quella zona. Kafka perché appunto c'è un'idea degli spazi, delle architetture che schiacciano, che si chiudono intorno ai personaggi, insomma la classica atmosfera kafkiana del processo, del castello, anche di America, che è un film proprio un romanzo proprio sull'immigrazione, uno dei meno conosciuti di Kafka, però racconta una storia simile di un migrante che si ritrova in un'America tutt'altro che letteraria. E è un film, non so, è trovato colossale. L'anno scorso è iniziato con The Master, qui non proprio all'inizio, perché insomma siamo già a fine gennaio, però si inizia con un altro film, con Phoenix, che mi ha fatto innamorare altrettanto. Non lo metto sullo stesso livello, perché The Master è un'opera oltre, nell'Olimpo. Questo è però poco sotto, perché è quel cinema grande, di personaggi colossali, di storie colossali, una New York bellissima, anche se non la vediamo. Cioè, il primo scorcio è una via che davvero sembra un fotogramma preso dal Padrino parte seconda, no? Tony Seppia nella fotografia, il traffico, sembra quasi che... Il famoso Tony Seppia. Tony Seppia, era un personaggio del Padrino, Tony Seppia. No? sembra di vedere, sembra da un momento all'altro arrivi De Niro che insegue Don Fanucci. Bellissimo, lì mi sono emozionato un sacco. Poi è pieno di scene commoventi. Tra tutte il finale, credo sia uno dei momenti cinematografici più belli degli ultimi anni. Io ero lì per lasciarmi andare alle lacrime, lo ammetto. C'è un monologo del solito gigantesco Phoenix, una reazione di Marion Cotillard, e poi c'è un'inquadratura che dice tutto. Quelle cose semplici che non si fanno più. Non credo di fare uno spoiler, è uno split screen, però non è artificiale, è ottenuto con l'immagine che viene immortalata dalla macchina da presa, ed è stupendo. Io lì stavo proprio in estasi. Quel cinema, io non sono neanche troppo un patito del cinema classico, pre-nuova Hollywood, però mi piacciono le grandi storie, i grandi personaggi, e questo è davvero fa ritornare quelle emozioni di quel grandissimo cinema che non si fa più, che fanno pochi grandi come Anderson, come Alfredson della Talpa, un film ingiustamente ignorato e sottovalutato, che secondo me è un capolavoro del cinema. E niente, bellissimo, emozionante, diretto con un'eleganza che appunto non si trova più, molti primi piani, molti giochi con gli specchi, con i vetri, con le tende, una bellissima ricostruzione, perché gli interni, per quanto opprimenti, per quanto preponderanti, sono costruiti con una precisione artigianale che non si vede tutti i giorni. È bellissimo, è la New York più terribile che ho visto negli ultimi anni. Da un lato è un peccato, perché è una città bellissima, però un migrante che arrivava lì in quelle condizioni probabilmente vedeva questo, una prigione, perché per Eva diventa una prigione, diventa un limbo quasi, tant'è che c'è una nebbia che non so se sei mai vista così a New York, ma una nebbia che copre la Statua della Libertà sullo sfondo, che impedisce di vedere oltre, una New York da cui incredibilmente si vorrebbe andare via. Bellissimo, io davvero sono cotto marcio di questo film, è bellissimo, interpretato benissimo da Phoenix, che è il solito mostro, e da Marion Cotillard, che in un ruolo così più silenzioso, ma è bravissima, è bellissima. Anche lei, forse, ripensando a Carrie, avrebbe quasi da dire, non funziona come sfortunata, però è una donna bella nel film, quindi ci sta. No, dai, funziona sì, con gli occhi. Ma poi fa innamorare, quindi deve essere bella. Dico, è troppo bella quasi per quello squallore, però siamo nel cinema classico ci sono le dive bellissime, anche quando sono impoverite e imbruttite. Tra l'altro, come ricordava anche Aloma, comunque l'avevo letto nelle curiosità su IMDb, lei è stata scelta da Grey durante una cena tra Grey, la Cotillard, e il marito della Cotillard, Ian Canet, mentre parlavano della sceneggiatura di Blood Ties, che era a Cannes, scritta sempre da Grey. E pare che mentre parlava, insomma, Grey abbia parlato male di un attore, la Cotillard gli ha tirato del pane addosso, e lui, divertito, un attacco di pane, esatto, citando Maccio Capatone, e lui si è innamorato dell'attrice in quel momento, ha detto, ecco, devo scrivere un ruolo, ma non solo ha scritto il ruolo, ma tutto il film, perché pare che sia nato intorno a lei. Dice che è bella come una diva del muto, è essenziale e silenziosa, cioè comunicativa nel silenzio come le dive del muto, sono d'accordo, è bravissimo, uno dei suoi ruoli più grandi, più belli, a fianco di un mostro come Phoenix che insomma ruba la scena inevitabilmente, eppure qui non ce la fa. Chiudo dicendo che la cosa più strana e più divertente è stata accorgersi che questo The Immigrant è quasi un remake di La strada di Fellini. Lo vedrete da certe scene che non vi anticipo, perché ci sono proprio delle scene che lo richiamano chiaramente, però è lì, è proprio palese. Mentre lo vedevo, sarà che l'ho rivisto da poco La strada, ma era chiaro, Bruno è uguale a Zampano, è proprio lo stesso tipo di personaggio, l'innamorato burbero. Lei è uguale a Gelsomina, no? Una sognatrice. Eva è più che altro una cattolica che non perde la fede, però siamo lì. E poi c'è il mago Orlando, che è interpretato da Jeremy Renner, che arriva un po' a chiarire a schiarire quest'incubo come il matto nel film di Fellini. Bellissimo, film che ha delle scene che ricorderò probabilmente per sempre. Sono, è vedere un affresco squallido in mezzo dei momenti, ecco, davvero sparuti di bellezza, delle scene potentissime come quella in cui Caruso canta Ellis Island davanti agli immigrati che sono lì, probabilmente verranno rimpatriati, verranno confinati, e c'è questo momento di estasi in cui persino Eva, che è lì a cercare la sorella, si ferma e guarda questo cantante, poi questo mago che dice: nonostante tutto, credete nel sogno perché esiste, no? È stupendo, davvero, è amore vero, mi fermo qui. Scemo. Ebbene, abbiamo citato sia Fellini che Lynch nella stessa puntata, Vero. Sì, non potrei essere più d'accordo, non potrei esprimermi meglio, però alla fine non riesco ad avere lo stesso amore, la stessa passione che hai messo te nella recensione e che hai messo te adesso. Come ben sai, sono un innamorato perso del cinema classico, amo quei personaggi, quelle storie, quei melodrammoni. Amo il cinema al femminile, questo è un cinema al femminile, il protagonista è femminile, molte donne sono al centro della vicenda, gli uomini sono personaggi secondari quasi e soprattutto negativi, soprattutto uno dei due. E amo New York, amo quella New York anni 20, ed è un film The Immigrant meraviglioso da questo punto di vista. Fotografia strepitosa, tipica delle foto ingiallite, rovinate degli anni 20. Aspettate, qualcuno si è lamentato che è una fotografia un po' opprimente, mi sembra di aver sentito, però no, è bellissima, avrà quella cappa, ma è la cappa dell'antico ed è molto bella. Ricostruzione storica, affresco, come dici te, meraviglioso, bellissimi gli esterni, peccato che New York si veda poco, però la verità è che quella era New York che vedevano, mica andavano più avanti, si vede in lontananza in una scena piccolissimo il Woolworth Building, che era il grattacielo più alto di New York e quindi d'America e del mondo, però appunto è una cosa lontanissima, un immigrato non esce dal suo quartiere, soprattutto in quel periodo. Il massimo del movimento che fanno è tornare a Ellis Island o no, ma Liberty Island non ci vanno, chiaramente. Bellissimi anche gli interni, una ricostruzione pazzesca, sembra di stare in quelle stanze da museo, sia gli infissi, i mobili, le coperte, il letto dove dorme Eva è pazzesca, ma anche Ellis Island, che probabilmente hanno utilizzato le brandine che sono ancora lì, che potete vedere nel museo di Ellis Island, che fanno ancora adesso impressione, roba da campi di sterminio, anzi di concentramento, non di sterminio, poveracci. Beh, tanto, sì, nel senso lo scopo era diverso, certo. Sì, cioè, rimaniamo alla fase prima dell'annientamento. Concentramento, sì. Concentramento. Personaggio di Eva, struggente, meraviglioso, ma anche gli altri. Mi è piaciuto tantissimo Phoenix, che appunto come Zampano, ma come fai a odiarlo? Certo è un pappa, certo sfrutta le donne, certo è un beone, certo molte le avrà picchiate e certo non le fa andare via perché è il suo sostentamento. Però è anche uno che è innamorato, è uno che le tratta bene, quanto può, è uno che agito male, ma è uno che vive lì, deve fare quelle cose se vuole sopravvivere. E appunto è un personaggio così ben scritto, ben interpretato, vabbè Phoenix è mostruoso. Poi quando deve avere una menomazione fisica ancora meglio, gli rompono la mandibola, lui dal massimo. Sì, bisogna menarlo. Sì. Tanto ricordiamo, prima mi dimentichi, scusa, sì, quella caduta, che non mi sembra sia una controfigura, comunque è una scena in cui corrono e lui cade, e cade davvero, e probabilmente si è fatto male. Non so se dopo, quando ha il sangue in faccia, l'hanno truccato, probabilmente era vero. Sì, un face splash poderoso. Bellissima la scena di Eva travestita da Lady Liberty, che è una prostituta, cioè il sogno americano svenduto così. Quella è una scena fortissima, molto bella, al pari dell'ultima, con lo split screen strepitoso. Ecco, se ci ripenso a tutto il film dico, ma come ha fatto a non piacermi, come ha fatto a non emozionarmi così tanto? È il classico film, e mi è capitato tante volte, che a ripensarci, wow, cioè il film per me, cioè New York è classico, è un melodrammone, quelli che insopportabili, ma perché sono, cioè li abbiamo già visti troppe volte, il triangolo, i personaggi sofferenti, perché sono vecchie storie, ma colpiscono sempre. E la fotografia meravigliosa, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so, durante il film ero distaccato. Probabilmente è per quel colloquio che ho avuto prima di questa registrazione. Stavo pensando a quello, sarei finito a fare l'immigrato. No. Sì, non è un bel modo di vedere la cosa. No, non è per quello, però stavo pensando a una cosa che poteva cambiare effettivamente la mia vita. Alla fine non è successo niente, però insomma avevo la mente che vagava un po' altrove, quindi dovrei rivederlo sto cacchio di Immigrant, mi ha rovinato questa malta, mi ha rovinato questa palta, mi ha rovinato la visione. Però ecco, forse è un problema che ho con Grey, perché Two Lovers l'ho visto tempo fa, te poi li hai visti? Sì, mi manca solo The Yards, che magari vi vedo stasera. Ecco, anch'io mi manca. Vabbè, Two Lovers era il film che io aspettavo da tempo, con quell'interprete, con quella storia, che non poteva non piacermi. Alla fine ho avuto la stessa reazione. Questo molto di più, cioè The Immigrant mi è piaciuto molto di più di Two Lovers, però è quella sensazione che non ha tradito le aspettative, perché sono dei bei film e mi hanno dato quello che volevo. Eppure anche Little Odessa, film diversissimo da questo, è classica opera prima, però alla fine ho detto Little Odessa è un po' più grezzo, sì, beh. C'è già una regia interessante, però sì. A me è piaciuto moltissimo Two Lovers. Questo sì, è su un altro livello. Sicuramente questo è il passo definitivo. Poi, però mi piace che, ecco, a parte usa sempre gli stessi attori. Phoenix ha fatto 4 film su 5 con Grey. Ma se guardi, sono sempre almeno uno, due, tre personaggi in comune. E racconta sempre, in un certo senso, le stesse storie. Cioè, sempre immigrati, sempre ghetti. Sempre queste storie di integrazione che non di disintegrazione. Sempre New York. Sempre New York, beh, la sua città. È molto innamorato, ma l'ha vissuta forse come non immigrato, ma comunque come estraneo in un certo senso. Però è bello, torna sempre su questi temi. Aspetta, gli piace molto. Two Lovers però era a Chicago, se non ricordo male. Non lo so, perché no, mi sembra fosse sempre New York. Potrei sbagliarmi, perché è sempre lì in interni anche. Il lago non era... non dicevano che era... No, no, lui si butta nella baia, dice, ma non spiega che baia è, cerco. Mi sembra che non sia New York, vabbè. Forse è l'unico allora. Sì, perché l'altro, I padroni della notte è New York, Yards non lo so, mi pare di sì. Anche I padroni della notte, anche quello molto citazionista, molto Scorsese, però... No, Two Lovers... quartiere di Brighton Beach, sempre a New York. Infatti lui si butta dal molo di Brighton Beach. Ah, giusto. No, è proprio attaccatissimo, gli piace un sacco, più che New York, appunto, questa zona, Brighton Beach, Little Odessa sempre. E sarà di lì, lui che è russo. È del Queens, ho letto lui, quindi sì. Io sono stato a Brighton Beach, e ci ho fatto il bagno, ho visto la zona... Sono stato proprio in quella via, quella di Little Odessa, perché è la stessa dove hanno girato anche, dove c'era l'appartamento della signora di, addio, Requiem for a Dream. È quello, il palazzo, comunque ce ne sono pochi che sono disponibili a lasciare girare. È un bel quartiere di giorno, d'estate. Infatti Little Odessa forse è quello che fa vedere il peggio, vabbè anche I padroni della notte però... Sì, ecco, sì. Quando ero andato io 2 giorni prima ne ho ammazzato uno lì, però appunto d'estate e di giorno vai al mare, poi è attaccata a Coney Island e c'è una spiaggia lunghissima e meravigliosa, una cosa enorme, e il mare no perché l'oceano freddo e pieno di alghe, però questo è un altro discorso. Il quartiere è bellino e poi c'è quella la sopraelevata, fa molto film anni 70-80 e tutte le scritte in cirillico, è carino. Poi ovviamente appena cade il sole andate via subito. Beh, come molte zone di New York, credo che valga quel tipo di consigli. Quando ci torno è un posto, è uno dei pochi posti che non ho visto. D'estate vai così, anche sì. Il bagno da fare. E boom, abbiamo finito. Vuoi dire sì. Altro? No, sono contento. Andatelo a vedere, ormai lo tolgono. Sì, anche perché sta arrivando il periodo Oscar, quindi ogni settimana ne uscirà uno nuovo e... Non c'è sì, più la stagione. Ci dispiace non aver visto Nebraska. Sì. Purtroppo anche quello mal distribuito. Io pensavo che insomma l'ondata Oscar avrebbe aiutato, invece niente. Lo recupereremo quando sarà. Speriamo prima degli Oscar. Esatto. Esattamente. Va bene. Vabbè, avete aspettato? Vi devo dire cosa c'è nel mio pacco? Dai. Allora, una cosa l'hai presa anche tu, volevo prenderla a Milano, poi l'hai presa tu recentemente. Sì, cofanetto di Cassavetes, poi c'è Soyuz 111, che è un film di fantascienza russo, non mi ricordo se è del 68, che ormai esiste solo in versioni tagliate, però ha vinto a Trieste, ne parlavano bene su Notturno, me lo sono preso. Quindi il DVD è fatto a fette, come la pizza, è tagliato. Esatto. E poi ho preso quel libro che è uscito di recente, di cui parlano tutti benissimo, che vi consiglio, Atlante sentimentale del cinema per il XXI secolo, che è un insieme di interviste non all'opposto dei registi di diciamo conosciuti, Abel Ferrara, Amos Gitai, Straub, Kira Muratova, insomma gli autori veri, e c'è anche un'intervista a Ghezzi, che è bellissimo, un librone della Madonna, italiano, una cosa che non succedeva da una vita, un bel libro di cinema italiano, e poi il cofanetto con diciamo alcuni dei corti, oddio adesso non mi viene il nome ma non riesco a tirarlo fuori dalla scatola, di Kenneth Anger, in Blu-ray, volevo prenderlo da un po', sono cortometraggi ma no, è Kenneth Anger, che cacchio, della BFI, bello, vi consiglio tutto, avevo anche i consigli. Insomma avete capito che qualcuno c'ha i soldi qui, eh? Non comprerò più nulla per mesi, ma sì, quello certo. Di Cassavetes, dai, è bello, ci sono 5 film, 25-26 euro, vi portate a casa un bel pezzo di storia del cinema, su Amazon, tra l'altro, segnalo, su Amazon sei tornato il 3x2, DVD e Blu-ray, e approfittatene. Soprattutto in quello di Cassavetes c'è la migliore, senza ombra di dubbio, interpretazione femminile della storia del cinema, la signora... Gina Rowlands in A Woman Under the Influence, o in italiano è solo Una moglie, mi sembra. Sì. Ed è spaventoso, nessuna donna mai raggiunto quel livello. Poi in Opening Night è lei stessa quasi a riprovarci, e non c'è, veramente sono state tantissime attrici brave nella storia del cinema, ma come Gina Rowlands e nessuno la dice mai, nessuno che la cita, dispiace, ma mi ricordo sempre Tassisti di notte di Jarmusch, sì. E lei fa il primo episodio, se non sbaglio, sì. Che fa l'attrice che cerca le attrici in strada, è anche una citazione al suo modo di fare, insomma, quello del marito più che altro, comunque a quel cinema, vabbè, Jarmusch è figlio di, però è bella, era quasi una dichiarazione d'amore. La cosa strana è che dall'altro lato c'è Winona Ryder, vabbè. Sì, comunque, vabbè, tutti i film di Cassavetes sono stupendi. Io sono un po' più affezionato a Ombre, però sì, Una moglie è probabilmente una delle prove femminili migliori della storia. Bene. Questa volta un po' più corta. Ciao. Ciao. In questo paese non c'è niente che va bene, in questo paese tutto quanto va sempre male, a nessuno non gli importa di niente, ognuno di noi si sente perdente. All'istituzione non gli importa di noi, e noi dobbiamo pagare a tutti voi che state rendendo tutti i nostri sacrifici vani, tanto che ci vergogniamo di essere italiani. Ma se per un attimo gli occhi chiudiamo, con la nostra testa una frase pensiamo, e qui a tutti voi pubblicamente lo diciamo. fare in culo lo Stato italiano. A fare in culo lo Stato italiano. A fare in culo lo Stato italiano. Ma andate tutti a fare in culo. Avete capito? Andate a fare in culo. A fare in culo lo Stato italiano.